Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We begin tonight with breaking news from Texas. A deadly brawl between rival gangs escalating into a fierce gun battle. At least 9 people are dead. Waco, Texas, scontro fra bikers, club di motociclisti, cowboys che appartengono un po' alla mitologia degli eroi solitari, un po' all'iconografia americana della ribellione. Avrete visto la notizia di questi scontri a fuoco in questa minuscola cittadina del Texas. Il problema è che poi in questo scontro vicino, fuori da questo ristorante Twin Peaks, ci sono stati 9 morti. Sono state recuperate 100 pistole, 191 persone arrestate ed è un miracolo che non vi siano state altre vittime, soprattutto fra, insomma, passanti della domenica in una pigra giornata della provincia americana. Allora, insomma, mi chiedo, ma chi sono questi bikers? Beh, la mia risposta è che sono dei semplici criminali di stampo mafioso, almeno quell'uno 1% che è raggruppato in questi club aggressivi. Attenzione, perché ci sono poi anche i bikers normali che girano magari lo stesso in giubbotti di pelle con tutta una loro iconografia per le strade americane, ma che sono assolutamente pacifici, si muovono nel traffico e non fanno danno. Ma invece a Waco c'è stato un regolamento di conti legato al controllo del territorio. Ma insomma, la storia è complessa proprio perché ci sono questi doppi messaggi che partono, se vogliamo, dall'iconografia semplice, quella di Easy Rider. Ecco, il film racconta la storia di questi due giovani, uno di buona famiglia, un altro non tanto di buona famiglia, sono sulle loro bikes, si incontrano a un certo punto e vanno avanti da soli, non in una gang, viaggiano solitari, in cerca di libertà, sono un po' a metà fra gli hippies e la contestazione, però vengono coinvolti in un giro di droga, devono vendere della roba, incassano dei soldi, i soldi vanno nel serbatoio, poi il serbatoio della moto, questo serbatoio che è questa bandiera americana simbolica, a un certo punto esplode e esplode come simbolo delle contraddizioni già allora di questo paese. Però c'è una realtà molto più dura di questi bikers e questa ce la dà un altro film, Hell Angels 69. Hell's Angels, the real Hell's Angels, riding today. Ecco, film importante anche questo, diciamo meno intellettuale, meno pretenzioso se vogliamo, di Easy Rider, ma certamente più duro, è un film più sulle bande di motociclisti, sempre però con uno sfondo eroico. Questi bikers sono un po' criminali, un po' gentiluomini, un po' duri e puri, un po' dolci d'animo nel profondo. Ecco, siamo di nuovo nel film. Torniamo alla realtà però, perché la realtà di Waco è un altro, è rappresentativa di una storia molto diversa, è una storia poco romantica e molto violenta, perché dietro la patina di ribellione contro rigidità della società, eccetera, eccetera, vi sono alla fine soprattutto uomini bianchi di una certa stazza fisica, piuttosto grossi, meglio se con tatuaggi in abbondanza, meglio se razzisti. Per l'FBI si tratta di terrorismo interno che funziona alle attività criminali, che vanno dal controllo della prostituzione, al traffico di droga, al furto, al crimine, direi di ordinaria amministrazione. Dietro quello che è successo a Waco c'è la storia di uno scontro epico, storico ormai, per il controllo del Texas. E lo scontro è tra i Hells Angels contro la nemesi dei Hells Angels, cioè i bandidos. Ecco, c'è chi dice che è stata la polizia ad aver aperto il fuoco contro queste bande, uccidendo i 9 membri, e lo stesso capo della polizia ammette che quando si è passati alla sparatoria, la polizia ha reagito uccidendo qualcuno di questi motociclisti. Ecco, resta il fenomeno di fondo, questi meccanismi di associazione arcaici che richiedono per l'ammissione in questi club criminali anni di prova. C'è un clima di forte omertà, di forte solidarietà, e i due club principali, secondo me, i Bandidos e il Hellgens, alla fine usciranno intatti da questo scontro. We have that patch on. people just basically shut up and made room for you. They didn't want to mess with any of us. That made me feel powerful. Ecco, questo è un audio tratto da Fanny Sonny, che è un membro storico dei Hells Angels, ma ce n'è un altro di cui ho visto un libro che si chiama Frank Reynolds, che fu ammesso, pensate, nel 61. Poi nel 67 ha scritto un libro, Freewheeling Frank, è diventato un classico, e ha riassunto in una semplice frase quello che è lo spirito e l'orgoglio, paradossalmente, dei membri di questo club. Dice: io e i miei fratelli siamo i più illiterati, degenerati, bastardi che abbiano mai messo piede sulla faccia della terra. Ecco, secondo William Tulaney, che è l'autore di una ricerca sull'origine dei Backers, nascono, diciamo, i Hell Angels soprattutto nascono nel 1948 sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, e dopo il ritorno a casa di reduci disillusi, senza lavoro, ancora sotto lo shock della guerra. E Tulaney dà una vera e propria identificazione di periodi. Fra il 1901 e il 1948 c'è il periodo preformativo, quando ci sono le moto che cominciano a girare per l'America. Tra il 45 e il 58 cominciano a prendere corpo alcuni club che sono molto più duri. Nel 58 comincia il periodo cosiddetto trasformativo, che arriva fino ai nostri giorni, che è caratterizzato dalla violenza sociale, dalla predisposizione al crimine. Un altro autore, James Quinn, professore all'Università del North Texas, ci dà un quadro più articolato dello sviluppo dei club. Ci descrive la formazione dei Bandidos, che nasce nel 1966 per iniziativa di Donald Chambers, che era uno scaricatore di porto a Houston, 36 anni, stufo degli altri club e dei Hells Angels in particolare, scelse questo nome ispirato ai banditi messicani che rifiutavano qualunque regola che non fosse la loro. E dopo quello che è successo a Waco, qualcuno dice: beh, insomma, è stato un po' un mezzogiorno di fuoco, saranno debellati, perché non si può nel 2015 avere cose di questo genere. Però questo lo si diceva anche nel 1972, quando Chambers, appunto il fondatore dei Bandidos di cui vi raccontai prima, fu arrestato dopo aver commesso efferatezze leggendarie. Per esempio, aveva costretto due bikers nemici che trafficavano droga nel suo territorio a scavarsi la fossa prima di dargli fuoco e di seppellirli. Fu condannato a un doppio ergastolo. Però i suoi Bandidos, come abbiamo visto domenica, sono ancora in giro. C'è chi scommette che, nonostante gli arresti e le condanne che verranno, continueranno ad esserlo per molti, molti anni a venire. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Maria24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, c'è una storia su Easy Riders, e che Dennis Hopper aveva chiesto a Bob Dylan di scrivergli il testo di una canzone. Bob Dylan scrisse la prima strofa di questa canzone, poi disse a Dennis Hopper: no, guarda, dalla Roger McGuinn, che era il front dei Byrds, lui saprà cosa farne. E in effetti ha scritto questa canzone molto bella, uno dei temi del film, The Ballad of Easy Riders di Roger McGuinn. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road. Some other town. All he wanted was to be free. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.